questa la penna solo, quella del passivo. Vabbè, però è più. Prima volta. Ah, no. Non si ne ha. Ah, ok. Ma ci devo fare. Adesso con te. Adesso con te. Oh, io! Che sì.